Gli speciali di Radio 24. He querido dirigirme esta noche a todos ustedes como presidente del gobierno. Presidente del gobierno de España, una gran nación, de las más antiguas de Europa y de las más desarrolladas del mundo. Quello che è successo è che sono arrivati circa una cinquantina di poliziotti e sono venuti, tutta la gente là fuori organizzata per impedire l'accesso al centro di votazione. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia. Hanno cominciato a tirare fuori la gente, però con una violenza massima. Ci sono state ferite, persone che sono state scacciate, persone che sono state buttate a terra, con il mio caso, no? Han vulnerado los derechos más fundamentales y han traspasado los límites del más elemental decoro democrático. Soprattutto gli anziani, i bambini, in quel momento praticamente non c'era nessuno, perché la Polizia Nazionale. Que el cauce para debatir sobre sus demandas políticas no puede venir nunca de la quiebra de la legalidad o de la imposición, sino de un diálogo leal en el que se escuche y se atienda a todos. Un saluto da Anna Migliorati, benvenuti dunque a questo speciale Catalogna. Questa sera, al termine di una giornata che comunque la vediate resterà nella storia della Spagna, ma anche nella storia d'Europa. 21:06, benvenuti a tutti quanti. Immagini che lasciano allibita la comunità internazionale, quelle che abbiamo visto per tutta la giornata, un voto per un referendum che non c'è stato per Madrid, un voto che la Catalogna rivendica con forza. Su tutto, dicevamo, le immagini della polizia catalana che si rifiuta di caricare la folla, la guardia civile, la polizia spagnola che interviene, quello che abbiamo sentito in questa sorta di copertina a raccontare la giornata è un testimone, un protagonista in uno dei seggi, oggi al microfono di Sergio Nava, e il premier spagnolo Rajoy, che ha terminato davvero da pochissimi istanti di parlare e che dice: abbiamo fatto rispettare la legalità, siamo un grande paese europeo. La si può raccontare in tanti modi la giornata di oggi, cercheremo di farlo naturalmente con i nostri inviati, con i nostri ospiti, per cominciare a riflettere anche su cosa succederà. Non c'è stato alcun referendum, i catalani sono stati presi in giro, dice Rajoy, un discorso che è stato trasmesso live anche in Piazza Catalunya a Barcellona. Allora, da qui ricominciamo. Sergio Nava, eccoti. Buonasera Anna, sì, fischi e bordate di fischi ad ogni passaggio il discorso di Rajoy, che devo dire la verità è sembrato veramente surreale, nel senso che Rajoy non ha fatto un solo accenno alle 761 feriti in tutta la Catalunya, più di 300 nella sola città di Barcellona, persone caricate nei seggi, colpite con manganellate, gas lacrimogeni nei seggi, una strategia evidentemente repressiva da parte del governo spagnolo, una strategia mediaticamente suicida, lo possiamo dire, perché queste immagini hanno fatto il giro del mondo e quindi il Plaza Catalunya. E anche questi racconti, Sergio, l'abbiamo fatto sentire poco fa, insomma, anche in radio riusciamo a farvelo capire com'è andata. Ecco, in questo momento stanno facendo vedere anche le immagini di Rivera, leader dei Ciudadanos. Quello che sta succedendo qui è che ci sono già diverse centinaia di persone ad aspettare il conteggio dei voti. Abbiamo delle cifre importanti, nel senso che la Generalitat catalana stima un'affluenza di 3 milioni di persone. Allora, se andiamo a vedere il voto del 2014, la consulta informale del 2014, è un aumento di 700.000 persone, erano state circa 2 milioni e 3, ma soprattutto se fossero 3 milioni parleremmo di oltre la metà degli aventi diritto al voto, quindi oltre la metà dei catalani sarebbe andata al voto. Ecco Sergio, la sensazione che abbiamo avuto, perché questa giornata con Radio 24 l'abbiamo raccontata tutta dalle prime ore di questa mattina, parlavi anche tu del referendum, un altro referendum che la Catalogna in realtà ha già fatto nel 2014 e che ebbe tutto sommato un'affluenza non così alta come ci si aspettava, e che proprio questa durissima reazione abbia spinto molti ad andare a votare. Sicuramente perché dopo nella tarda mattinata si sono sparse le prime voci tra Serulli. Io ero in un seggio nei pressi della fermata di Maragall, nel nord di Barcellona, e si è visto proprio sempre più gente andare a votare. Anche chi era indeciso ha preso in quel momento la decisione di votare. Ed è uscito di casa e ha deciso di andare a votare. Allora, tu sei in piazza in questo momento, una piazza che nelle intenzioni dei catalani dovrebbe essere di festa. Si respira un'aria diversa a Madrid. Madrid e Barcellona davvero forse non sono mai state così lontane come in questi minuti. Sergio, torneremo ancora da te, perché abbiamo tanto da raccontare con i nostri ospiti in diretta fino alle 22 per questa giornata speciale. Vi vogliamo far sentire però intanto altre parole proprio poco fa del Premier Rajoy. Tengo muy presente a tantos catalanes a quienes engañó al convocarles a participar en una movilización ilegal, desarticulada logísticamente y sin ningún tipo de garantía. Entiendo la frustrazione. Ecco, la frustrazione di essere stati presi in giro. Rajoy, che come abbiamo sentito da Sergio Nava, ha fatto questo lungo discorso al termine di questa giornata davvero drammatica per le immagini che abbiamo visto, 760 feriti, per un voto che lui stesso ha definito un voto pasticciato e quindi non legale. Catalani presi in giro perché il referendum, dice Madrid, non c'è mai stato. Che poi abbia o non abbia effetto la giornata di oggi, questo è un altro discorso, perché in qualche modo la storia l'avrà segnata, la storia della Spagna. Saluto anche il collega del Sole 24 Ore, Luca Veronese. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie. Anche tu hai passato questa giornata a Barcellona, noi abbiamo visto qui da Milano le immagini, è stata una lunghissima giornata e probabilmente non è ancora finita. Sì, ho passato la giornata a vedere cosa succedeva nei seggi e in effetti Rajoy può avere ragione quando dice che il voto è stato un voto organizzato in modo strano, senza le garanzie di un voto tradizionale. È altrettanto vero che gran parte della popolazione, almeno a Barcellona, ma anche in provincia, da quello che ho visto, si è mobilitata e che la violenza messa in campo dalla polizia ha cambiato gli equilibri e ha segnato una rottura che ormai è insanabile fra Madrid e Barcellona, e non so davvero dove possa portare. Non sappiamo dove possa portare, questo è il punto. Ci siamo detti anche con te nei giorni scorsi, comunque finisca questa giornata, domani mattina chi dovrà dialogare e in qualche modo cercare un accordo, come peraltro dice in qualche modo anche lo stesso Rajoy, sono ancora Barcellona e Madrid, vale a dire il Premier Rajoy e Puigdemont, il capo a questo punto di questa indipendenza catalana. C'è una via di dialogo dopo una giornata di questo tipo? La sensazione a parlare con le persone, con alcuni esperti e anche con chi ha responsabilità nei partiti, la sensazione è che Rajoy e Puigdemont non saranno i due leader a gestire il dialogo. Non lo possono fare per come sono arrivati alla giornata di oggi, per la loro storia, per quanto riguarda Rajoy. Qualcosa succederà, io purtroppo la sensazione che sia qui, il polso, è che si arriverà a una conseguenza anche più grave, che può essere il carcere, l'incriminazione pesante per leader catalani, l'attivazione dell'articolo della Costituzione che permette di sospendere i diritti della regione, per poi ripartire chissà in che modo, ma e chissà con chi. E chissà con chi. Vicinissima all'indipendenza, secondo me. Allora, 349-238-6666, anche questa sera come sempre Radio 24 lascia spazio anche a voi, WhatsApp, SMS, diteci come la pensate, ci sono i nostri inviati, i nostri esperti per cercare anche di raccontarvi in altro modo in ogni modo possibile questa giornata. Luca, la diretta durerà fino alle 22, quindi avremo occasione anche di tornarci. Il discorso di Rajoy è stato ringraziato ringraziate le forze dell'ordine, ed è apparso così, per chi aveva le immagini di quello che stava succedendo a Barcellona, 760 feriti, e molti erano anche anziani tra i fermati. Ricordiamo che ci sono anche dei minorenni, quindi dei ragazzini. È apparso veramente strano, forse Rajoy non poteva fare diversamente, ma sono apparse veramente parole così lontane da quello che abbiamo visto. Sì, la spaccatura, come dicevo, è definitiva. E non poteva fare diversamente, ma è altrettanto vero che appunto questa reazione con le cariche ha spostato l'equilibrio e ha spostato anche probabilmente ulteriori consensi dalla parte dell'indipendenza. Sulle forze dell'ordine c'è un discorso da fare sui Mossos de Squadra, che sono la polizia regionale, che ha in gran parte disobbedito agli ordini della magistratura, e che è un segnale abbastanza forte di una situazione già ormai quasi... E che è sotto inchiesta, perché a questo punto ci sono aperte anche indagini in ben 6 procure proprio su quella che è stato l'operato della polizia catalana e polizia spagnola, e la Guardia Civile, che poi è intervenuta. E anche questo, davvero, Madrid e Barcellona forse non sono mai state così lontane. Grazie a Luca Veronese, anche tu resta con noi come Sergio Nava. Abbiamo ancora molto da raccontarvi, c'è il tempo però per una piccola pausa. Informazioni per chi viaggia, siamo sempre qui, 349-238-6666. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presento gli speciali di Radio 24. Un voto al di fuori di ogni regola, di ogni controllo, un voto clandestino nel 2017. Catalunya al voto per un referendum che Madrid non riconosce, ma che ha portato milioni di persone al voto. Lo sapete cos'è quella che stiamo ascoltando? È una canzoncina. Racconta alle 7 tutti convocati nelle sale da concerto, alle 9 il concerto comincia, portate da casa le partiture. È un messaggio in codice. Alle 7 si aprono i seggi, alle 9 si comincia il voto, le schede ognuno se le porti da casa perché saranno vietate. È stato veramente un voto che non credevamo di vedere nel 2017, legale o illegale che sia stato quello della Catalogna, un voto che ha viaggiato in gran parte in maniera carbonara, messaggi in codice, schede telefoniche prepagate tra gli organizzatori, parole in codice, sono il viaggiatore della carta. Così doveva dire chi aveva le schede in mano. È stata una giornata che ha segnato, come raccontavamo poco fa, l'allontanarsi sempre più tra Madrid e Barcellona. E le parole del premier Rajoy lo hanno certificato. De manera muy especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Alla Polizia Nazionale. Un grazie, dice Rajoy al termine della giornata, proprio poco fa, alla polizia. Un grazie per essere intervenuta sulla folla. 760 i feriti alla fine nei seggi. E sentitelo. Mientras se perpetrava un attacco tan grave a nostra legalità. Un grazie anche all'Europa. All'Europa, dice Rajoy, che ci ha lasciato fare, che non è intervenuta. Anche di questo dovremo parlare. Il grande nemico del governo spagnolo ha un nome ed è Puigdemont. Agisce solo per la sua ambizione, dice Madrid. E ci scrive qualche ascoltatore: temo che la Spagna sia un passo dalla guerra civile, i popoli hanno diritto alla libertà. 349-238-6666, così ci state scrivendo. Mario Magarò, benvenuto. Buonasera a voi. Da Radio 24 ci sta raccontando in questi giorni, queste lunghissime giornate, anche quelle che hanno portato alla giornata di oggi. Mario, perché... Puigdemont è il grande nemico numero uno di Madrid. E allora sentiamo anche le sue parole. Di che trattava l'1 di ottobre? L'1 di ottobre era una questione di democrazia. La pallottole di gomma, la violenza ingiustificata usata dal governo spagnolo contro persone che difendevano le urne, le schede, i collegi elettorali, descrive perfettamente una pessima immagine esterna delle Spagne, una vergogna che accompagnerà per sempre la nostra memoria, e allo stesso tempo descrive perfettamente il coraggio e la il coraggio delle persone che stanno facendo coda per votare, per decidere liberamente. Oggi lo Stato spagnolo ha perso molto di più di quello che ha perso fino a ora, e noi cittadini catalani abbiamo vinto molto di più di quello che avevamo vinto finora. Questo dice Puigdemont, questo è tutto da vedere, perché ci ha perso lo Stato catalano, ci ha perso Madrid, entrambi sicuramente hanno perso. Mario, perché è il nemico numero uno? È il nemico numero uno perché di fatto Carles Puigdemont è il primo ed unico fino ad ora politico indipendentista catalano ad aver convocato un referendum indipendentista con tanto di legge per il referendum promulgata dal Parlamento catalano. Di fatto Puigdemont è arrivato a un punto non raggiunto nemmeno dal suo precessore e mentore Artur Mas. Dobbiamo ricordare, nel novembre 2014 si era reso protagonista e promotore di una consultazione popolare non avente però alcun valore legale. Qui parliamo di un referendum che secondo le autorità catalane è assolutamente legale, in base in primis al diritto di autodeterminazione del popolo catalano. E questa è la differenza. La consultazione del 2014 tutti, anche i catalani, erano consapevoli del fatto che fosse consultiva. Questa per i catalani non lo è. Hai la sensazione però che anche a chi ha voluto organizzare tutto questo sia un po' sfuggita di mano la situazione? No, per la verità no. Io credo che le autorità catalane erano ben coscienti che la situazione sarebbe potuta evolvere in questa maniera, e d'altronde lo stesso Puigdemont non ha fatto mistero negli ultime settimane di essere pronto ad andare anche in carcere. Le autorità catalane erano ben coscienti, ed anzi bisogna ricordare che un paio di mesi fa c'è stato un rimpasto governativo promosso dallo stesso Puigdemont che ha rimosso una serie di ministri e assessori che avevano mostrato dei dubbi rispetto al referendum, come Neus Montel, ex portavoce del governo catalano, Jordi Baigé. È stata per esempio decisiva la nomina di Pere Soler come nuovo comandante dei Mossos de Squadra, la polizia catalana. Con le immagini che abbiamo visto oggi, tu dici alla vigilia sono andati avanti tutti come se nulla fosse? Sì, assolutamente sono andati avanti come se nulla fosse. Quante responsabilità c'è secondo te anche da parte catalana? Beh, sicuramente la responsabilità di aver voluto forzare la mano, perché comunque per approvare le leggi del referendum e della transitorietà giuridica all'interno del Parlamento si è ricorso a un vero e proprio escamotage del regolamento parlamentare che di fatto ha calpestato i diritti dell'opposizione. Quindi di fatto delle responsabilità ci sono. Puigdemont ha detto ripetutamente di aver cercato un dialogo con Madrid e di non aver trovato un interlocutore. Però c'è di fatto che Puigdemont è andato avanti per la propria strada e l'idea di convocare un referendum è stato l'icona del suo programma elettorale. Puigdemont, che ha preso le redini della Catalogna nel gennaio 2016, sin da subito ha detto: il mio obiettivo è convocare questo un referendum. Questo farò, e fino qui è arrivato. Staremo a vedere cosa farà poi da domani mattina. Grazie anche a Mario Magarò, ritroveremo anche te naturalmente. C'erano a Barcellona oggi anche una serie di osservatori internazionali, molti dei quali sono rimasti forse allibiti dalle scene che hanno visto. Io saluto il vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Erasmo Palazzotto, benvenuto. Buonasera a tutti voi. Da osservatori internazionali, che impressione avete avuto? Che giornata è stata quella di oggi per Barcellona? Io credo che sia stata una giornata drammatica per la democrazia in Spagna e in Europa. Le immagini a cui abbiamo assistito oggi nei seggi elettorali non sono degne di una democrazia che può stare in Europa. Abbiamo assistito a scene in cui la polizia spagnola, la Guardia Civile, entrava nei seggi, caricava persone inermi che opponevano una resistenza del tutto pacifica, con una repressione, una violenza inaudita davanti a un movimento che è stato straordinario dal punto di vista della partecipazione civile, della grande, diciamo, capacità anche di attraversare la società in tutti i suoi strati sociali e in tutte le generazioni. Come si fa? Questo è stato ignorato. Ecco, come si fa però? Perché abbiamo detto, l'abbiamo raccontato, ci sono state responsabilità da parte del governo di Madrid, che ancora questa sera ringrazia tra l'altro la polizia per quello che ha fatto. Ci sono state responsabilità da parte delle autorità catalane che hanno forzato la mano fino ad arrivare qui. E poi ci sono le cancellerie europee che in qualche modo dovranno esprimersi. L'Unione Europea fino ad ora ha taciuto, gli altri si sono espressi e non espressi così con molta diplomazia. L'Italia come si trova a questo punto con un partner come Madrid? Guardi, al di là di come la si pensi su questo referendum, sulla legittimità e su come è stato convocato, c'è una responsabilità gravissima del governo centrale rispetto a come ha gestito tutta la vicenda e soprattutto sulla repressione di oggi. C'erano diversi modi per affrontare una situazione di questo tipo. Sicuramente doveva prevalere il dialogo e la capacità di trovare una soluzione concordata. Questo non è stato cercato da entrambe le parti, però è evidente che davanti alla convocazione, per quanto illegittima, di un referendum e a una grandissima mobilitazione popolare che, tengo a dire, non riguarda semplicemente la generalità catalana, ma un grande movimento di popolo che non può essere ignorata, una richiesta di democrazia, non si può rispondere con la violenza. Questa, ecco, è una responsabilità che è superiore a tutte le altre. È il silenzio delle cancellerie europee davanti questo a questa assordante. Vicenda è scandaloso. Questo è assordante, sono d'accordo con lei. Adesso ci scrive tra l'altro un nostro ascoltatore. Sto rientrando proprio adesso da Barcellona, ho parlato con molte persone, molte di loro erano contro l'indipendenza. Questo è vero, non è questo il punto. Il punto è si poteva o non si poteva votare. E su questo l'abbiamo detto, ci sono responsabilità da entrambe le parti, sopra le quali giustamente ci sta la somma responsabilità di chi ha comunque ordinato di sparare anche con proiettili di gomma ad altezza uomo. Qualcuno ci scrive: la Spagna è ad un passo dalla guerra civile. Come osservatore internazionale lì oggi, avete avuto questa impressione? No, non abbiamo avuto questa impressione, abbiamo avuto l'impressione di una guardia civile che ha usato metodi repressivi degni di una dittatura latinoamericana e al contempo invece di un movimento che è stato ultra pacifico e che ha opposto al massimo una resistenza passiva. Quindi non siamo sull'orlo di una guerra civile. E queste io mi sarei aspettato parole oggi delle parole almeno di appello al dialogo da parte delle cancellerie europee e non un silenzio o una neutralità davanti a quello che stava accadendo. Vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio, Palazzotto, chiederete conto al governo italiano? Chiederemo al governo italiano di prendere una posizione e che sia una posizione chiara rispetto alla condanna delle violenze. Poi per quanto attiene alle altre responsabilità, sono parte del dibattito politico spagnolo e penso che debbano essere riconosciute. Indubbiamente oggi il popolo catalano si è anche diviso, ma devo dirvi che anche dopo le violenze di stamattina tantissimi che erano contrari al referendum sono andati a votare, si sono riversati in massa i seggi per come dare il segno di esserci a questa repressione. Grazie allora Erasmo Palazzotto, vicepresidente Commissione Esteri di Montecitorio, grazie da Barcellona. Una piccola pausa. Come avete sentito, le questioni sono tante. Una di queste è cosa faranno le cancellerie europee, un'altra è cosa farà la Catalogna domani mattina. Il delegato catalano in Italia tra pochissimo con noi, subito dopo una piccola pausa. Gli speciali di Radio 24. Quello che hanno fatto era tirare a tutto il personale, prendervi e buttarci a terra o dare un colpo. Sono persone che hanno ricevuto un colpo, persone di una certa età, 60-70 anni, no? Non sto parlando di giovani, no? Ecco. Ci sono stati dei feriti? Sì, ci sono stati feriti, diverse persone che conosciamo, oltre a un paio di bambini o dei giovani che hanno ricevuto in maniera particolare, perché logicamente quando vedevano che erano giovani ancora facevano di più. E in questo senso poi sono state persone d'età che hanno ricevuto, erano feriti, colpi con rottura di costelle. Ve l'aspettavate? Volevamo credere di no. Quello è successo oggi a Barcellona. Cambierà i rapporti con Madrid definitivamente, secondo lei? Penso che questo è l'inizio del fine. Sono sicuro che il rapporto con Spagna non sarà mai lo stesso. E su questo possiamo davvero essere d'accordo anche noi da Milano. Ancora un saluto da Anna Migliorati, ancora spazio per raccontarvi questa lunga giornata catalana. Sergio Nava, eccoti ancora con noi. Tu sei ancora in Piazza della Catalogna a Barcellona. Un'immagine simbolo appena trasmessa dalla TV catalana, il giocatore, il catalano Piqué, difensore Barcellona, difensore nazionale spagnola, che piange in diretta davanti ai giornalisti. Lo racconteremo anche noi con Dario Ricci, c'è anche il mondo dello sport che si è mobilitato. Hai ragione. L'immagine, la gente applaude. E la gente applaude, abbiamo sentito anche dei cori, abbiamo votato. Abbiamo fatto anche ascoltare le molte testimonianze che hai raccolto tu oggi, e ci stanno arrivando moltissimi messaggi al 349-238-6666. Scriveteci ancora, perché c'è spazio per tutte le opinioni. Qualcuno ci dice: con quale coraggio i poliziotti hanno massacrato la gente. La persona che tu hai intervistato ai seggi ha detto: indietro a questo punto non si torna. La sensazione è quella, Sergio? È difficile dirlo, nel senso che sicuramente ricordiamo sempre che c'è una parte consistente della popolazione catalana che non vuole lasciare la Spagna, però è chiaro che i fatti di oggi segnano una linea probabilmente di demarcazione netta. Molto dipenderà da quello che dirà tra una mezz'ora circa il presidente catalano Carles Puigdemont, se l'accelerazione di quello che è successo oggi imprimerà appunto una svolta di dichiarazione unilaterale di indipendenza, quindi una rottura netta, totale con la Spagna, oppure se ci sarà una condanna molto forte. Ecco, ricordiamo Sergio che entro 48 ore dall'ufficialità del voto, la legge catalana che ha approvato questo referendum, a differenza di quella spagnola, prevede il distacco unilaterale. Tutto sta a se verrà fatta scattare questa clausola. Esatto, diciamo che questa legge poi è stata, così come referendum, è stata sospesa, congelata dal Tribunale Costituzionale spagnolo, quindi non ha validità per la Spagna, ha validità per la Generalitat. Però è anche vero che negli ultimi giorni le dichiarazioni su questo punto sono state un po' contrastanti, nel senso che si è vista anche un'ala più dialogante, soprattutto nella parte del Partito Democratico Catalano, il Partito Democratico Europeo Catalano diceva che sembrava più propensa comunque a aprire un dialogo, a dichiarare di fatto un percorso verso la rottura, ma concordandolo. È chiaro che questi 771 feriti cambiano molto la storia, e hanno sicuramente stanno facendo pendere sicuramente l'ago della bilancia in favore dell'indipendenza. Quella zona grigia di indecisi, io penso che di fronte a immagini così forti, qualcuno le ha paragonate alle immagini della scuola Diaz in Italia, a Genova, ma davanti al mondo, quindi in diretta mondiale, quelle immagini così forti probabilmente hanno cambiato la storia catalana. È in diretta mondiale, e questo è il punto, gli occhi erano tutti lì. È con noi... qualche minuto, allora vediamo di riuscire ad averlo, il delegato catalano in Italia Luca Bellizzi, perché come dicevi tu, tutti pronti a fare dichiarazioni ufficiali, in realtà ricordiamo che ha parlato Rajoy, il governo catalano paradossalmente dopo tutte queste immagini è quello che sta in qualche modo ritardando un intervento. Luca Bellizzi, benvenuto. Sì, buonasera, grazie per la chiamata. È stata una giornata complicatissima. Il premier Rajoy ha parlato, voi i dati ancora non li avete? Non abbiamo dati ufficiali, lo scrutinio delle schede è in alcuni seggi ancora in atto, legati anche a problemi logistici, quindi stiamo aspettando i dati definitivi per calcolare tanto quella che è l'affluenza, il risultato definitivo, e ovviamente stiamo aspettando anche una dichiarazione del nostro presidente Carles Puigdemont. Ha valore questo voto? Avete votato portandovi la scheda da casa, e nelle auto in corsa, con, leggevo, le parole d'ordine, i messaggi d'ordine, sono il viaggiatore di carta per poter trasferire queste schede senza che la polizia si accorgesse. Al di là delle immagini che abbiamo visto e che dal punto di vista mediatico internazionale sono state fortissime, si può dire che ha un valore legale questa consultazione? Il valore è dato proprio dalla volontà del popolo di Catalogna di potersi esprimere. Non abbiamo potuto celebrare questo referendum così come avremmo voluto celebrarlo, né negoziato con lo Stato spagnolo, che era la nostra volontà, e sempre abbiamo detto che fino all'ultimo minuto eravamo disposti a negoziare su qualunque aspetto di questo referendum, dalla domanda o più domande, quorum, censo, possibili divieti di celebrare altri referendum in futuro. La risposta è sempre stata quella di un no. Quindi non abbiamo potuto celebrarlo così come lo avevamo, anche per l'azione delle ultime settimane da parte del governo spagnolo, con l'arresto di 14 membri del governo, con le perquisizioni nelle sedi del governo catalano, la confisca del il ritiro di materiale propagandistico e pubblicitario. Quindi sapevamo che non stavamo e non potevamo celebrare il referendum così come lo volevamo, però stavamo dando proprio al popolo di Catalogna l'opportunità di esprimersi liberamente e pacificamente. La risposta oggi dello Stato catalano e del governo spagnolo è stato quello di 761 feriti, dei quali il presidente Rajoy non ha fatto assolutamente cenno nel suo discorso l'abbiamo sentito. C'è possibilità ancora di dialogo? Ci chiediamo, in fin dei conti, a Barcellona oggi c'è stato chi era da una parte, chi era dall'altra. Nessuno qui vuole usare parole forti come guerra civile, però è una divisione profonda. Guarda, io sinceramente la guerra civile non l'ho vista, ho visto da una parte cittadini organizzati in maniera civica che cercavano di esercitare un proprio diritto fondamentale, e dall'altra parte una polizia inviata con un unico scopo, prima di tutto quello di reprimere con la violenza. Sinceramente vorrei anche sapere con quale motivo, qual era il reale scopo politico dietro questo comando. Era quello di creare o di aspettarsi una reazione spropositata da parte del popolo catalano che potesse sfociare in qualcos'altro? Ma non credete catalano... di avere qualche responsabilità per essere arrivati fino a questo punto? In 7 anni, come le dicevo, abbiamo provato a negoziarlo in tutti i modi con lo Stato spagnolo, la possibilità di dare al popolo catalano democrazia, un proprio diritto, quello di poter decidere liberamente il proprio futuro. Sinceramente la reazione di quella di oggi, io credo che è una dimostrazione che va molto più in là di qualunque scontro politico. Una cosa è il confronto politico, si può stare a discutere di legalità, che è sempre stata la posizione del governo spagnolo, però sinceramente quando si inviano 43.000 effettivi della Guardia Civile con un unico scopo, sinceramente io credo che si supera una linea rossa che difficilmente può creare la possibilità di dialogo. La nostra volontà rimane. Però nel suo discorso pochi minuti fa Mariano Rajoy praticamente già minacciava ulteriori arresti. Questo è assolutamente vero, tant'è che volevo giusto chiederle che effetto le fa il fatto che Rajoy abbia detto noi abbiamo agito così perché questa era la legalità. E effettivamente c'è da dirlo, vedere oggi i lacrimogeni e i manganelli lasciava perplessi. Non so chi l'ha detto in questi giorni, perché purtroppo i messaggi soprattutto oggi di Twitter si sono andati ripetendo all'infinito, che parlava che si è trasformato lo Stato di diritto nel diritto dello Stato di fare quello che vuole. Oggi lo Stato spagnolo ha dato esattamente un esempio negativo di quello che ci si aspetta da uno Stato dell'Unione Europea. Sempre l'abbiamo detto in questi giorni. Ma voi vi sentite nell'Unione Europea? Certamente, non ci sentiamo totalmente europei, il nostro obiettivo è quello di rimanere nell'Unione Europea, rimanere nella zona Schengen. Ma come fate da soli? Quello che sempre io ho cercato di spiegare in questi è che l'Europa ci ha abituato a problemi pratici, soluzioni pratiche, legate anche a interessi che possono essere di carattere geopolitico, economico. Quello che oggi il vero grande problema è che se fino a ieri Catalunya era un problema per Spagna, oggi la Spagna è un problema europeo, perché quello che si è visto oggi nelle strade di Barcellona, ma anche in tutte le altre città di Catalogna, non è degno di uno Stato europeo. Ci aspettiamo ovviamente una condanna, perché quello che abbiamo visto oggi è una fragrante contro l'articolo, un'azione che va totalmente incontro. Una violazione. Violazione, però, mi scusi perché mi usciva in catalano. Allora, quest'ora della giornata è stata una giornata che è iniziata molto presto. Sì. Immaginiamo, è molto tardi. Esattamente. L'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea parla esattamente di questi diritti che noi cercavamo di difendere oggi in Catalogna in modo civico. Di autodeterminarsi, come scrivono alcuni nostri ascoltatori. Grazie Luca Bellizzi, delegato catalano in Italia, appena rientrato da Barcellona, giusto? Giusto, un paio di ore fa, dove appunto ho potuto votare. Ha votato, adesso... e infatti gliel'avrei chiesto. Grazie, allora grazie a Luca Bellizzi. Luca Veronese, anche tu ancora con noi, il inviato del Sole 24 Ore. Ci sarà secondo te la risposta dell'Europa? È, come dice il delegato catalano, a questo punto, dopo la giornata di oggi, una questione europea, quella catalana? Sì, sì, il delegato Bellizzi ha sicuramente ragione. Credo che già Rajoy abbia ricevuto qualche telefonata, mi dicono della telefonata di Angela Merkel dalla Germania, che è la, diciamo, la compagna di partito oltre che riferimento per il partito. Imbarazzante compagna di partito a questo punto, perché domani tra l'altro si apre la plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo e forse vicino a certi delegati spagnoli qualcuno ci si farà un po' il vuoto, che dici? Sì, fino ad oggi l'Europa, anche gli amici di Rajoy, avevano rispettato l'autonomia spagnola e c'erano fidati di Rajoy, che diceva è un problema che gestisco io. Da oggi non è più un problema che può gestire da solo, è evidente che Rajoy non ha risposte politiche da dare, e per quanto la legalità, la Costituzione siano tutte dalla sua parte, è evidente anche che siamo andati oltre la linea della legalità da tutte e due le parti, ma con responsabilità ovviamente molto più forti, come dicevamo prima, di chi ha messo in campo la violenza e che l'Europa non può sopportare. E che è plastica, perché 760 feriti sono veramente tantissimi. Resta ancora con noi gli aggiornamenti per chi a quest'ora è ancora in viaggio. Abbiamo ancora spazio per raccontarvi qualcosa di questa Barcellona e di questa Madrid, mai così lontane. Gli speciali di Radio 24. E a riportarci in Catalogna intanto la musica, ve l'abbiamo già raccontato, di questi cori che si sono diffusi clandestinamente, una sorta di istruzioni per l'uso, per il voto, ma carbonari parlano di cori e invece si parla di schede elettorali, perché il voto in Catalogna oggi è stato anche questo, 760 feriti, numerosi arresti, un problema europeo da domani mattina o forse già da questa sera. Maria Elena Cavallari, docente alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Luiss, benvenuta. Grazie, buonasera. È un problema europeo a questo punto la Spagna? Allora, intanto naturalmente vorrei dire che la reazione, che condivido, o la linea di una reazione sproporzionata da parte del governo spagnolo, e credo che all'ultimo il discorso fatto pochi minuti fa dal premier Rajoy faccia intendere che si continui a ignorare appunto la portata del problema. Però l'Unione Europea fino a oggi, fino a questo momento, una giornata che si attendeva come una giornata di scontro, ma probabilmente non scontro di questa portata, lei ricordava poco fa l'altissimo numero dei feriti, l'Unione Europea, come dicevo, ha taciuto. L'Unione Europea, le varie cancellerie europee condannano e condanneranno quanto è accaduto oggi, ma l'Unione Europea si interfaccia con quello che è uno Stato sovrano. Lo Stato sovrano è quello, che è Madrid, diciamo, garantito dal governo spagnolo, e quindi da un punto di vista diciamo di relazioni il rapporto non può essere fatto direttamente con la comunità autonoma. Qualcuno ci scrive anche 349-238-6666, veramente tantissimi i nostri ascoltatori, continuate a farlo, è un problema anche per l'Italia. Oggi ci sono state, ve l'abbiamo raccontato nei nostri giornali radio, tantissime dichiarazioni che ovviamente discostano, allontanano il caso spagnolo da quello italiano, nulla a che vedere coi nostri referendum. Risentiamo però proprio Rajoy, la parte a cui si riferiva la professoressa Cavallaro. De manera muy especial a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional. Un grazie alla Polizia Nazionale. Professoressa Cavallaro, stupisce, ci aspettavamo una giornata difficile, forse fino a queste dimensioni no. No, fino a queste dimensioni no. Il fatto che appunto il governo ha agito nel pieno della legalità è stato detto una serie di volte, ma avrebbe potuto muoversi diversamente, soprattutto da un punto di vista di immagine per l'intero paese, o comunque al di là dell'immagine anche insomma l'uso dei proiettili di gomma per scoraggiare la folla. Ad altezza d'uomo è stata veramente... Ad altezza d'uomo sono delle cose che appunto io mi immaginavo ieri degli scontri, ecco, le dico la verità, ma non mi immaginavo la portata di questi Lei si scontri. Spiega questa scelta di Rajoy, perché sembra volersi far del male da solo in fin dei conti, c'erano le telecamere di mezzo mondo. Guardi, io quello che ho notato è che una differenza insomma rispetto al Rajoy ha scelto di sottovalutare il problema, e sta mantenendo in continuità nonostante la giornata di oggi quello che è l'atteggiamento che aveva avuto i giorni precedenti. Un atteggiamento è cambiato negli attori politici, ed è quello del Partito Socialista spagnolo, e sta cambiando in queste ultime ore. Il segretario del partito, Pedro Sánchez, fino a ieri aveva dato sostegno sul fronte della legalità all'azione del governo. Dopo le immagini di oggi è diventato imbarazzante. Oggi sta chiedendo al governo di cambiare la sua Di cambiare atteggiamento. Qualcosa succederà. Potrebbe succedere una crisi di governo. Potrebbe, se il Partito Socialista Spagnolo non appoggerà più Come noi dicevamo prima, forse a dialogare nei prossimi giorni potrebbero non essere i protagonisti di oggi, per i quali è difficile sicuramente dopo questa giornata mettersi attorno ad un tavolo. Grazie Maria Elena Cavallaro, docente alla Facoltà di Scienze Politiche all'Università LUISS. Ci ha raggiunto anche Dario Ricci, benvenuto. Sergio Nava ci ha raccontato proprio poco fa di un'immagine simbolo, è davvero un'immagine simbolo e ancora una volta nella storia succede, arriva dal mondo del calcio. Eh sì, direi proprio di sì, perché immagino tu faccia riferimento al Camp Nou vuoto, alle lacrime di Piqué, giocatore simbolo di questo Barcellona che oggi ha vinto per 3-0 contro il Las Palmas, che sulla maglietta aveva lo stemma della... giallo rosso della Spagna, della Spagna reale. E mentre stiamo parlando, Anna, curiosità vuole che siano in campo al Bernabéu il Real Madrid e l'Espanyol, la seconda squadra di Barcellona, tra l'altro Real in vantaggio per 1-0. Insomma, storia del calcio che si intreccia inevitabilmente con questa vicenda, e da sempre direi nel calcio spagnolo, permettimi questo rapidissimo excursus, perché negli anni 80 dominavano le squadre basche, Real Sociedad e Athletic Bilbao. E allora diciamolo anche che la telefonata, tra l'altro, ad entrambe le parti è arrivato dal rappresentante basco che prova a far dialogare gli altri due. La Spagna è veramente ci riserva sorprese. Facciamo anche sentire, abbiamo un contributo, ce lo racconti? También os puedo decir que si el mister o qualche dicevamo le parole di Piqué dopo questa partita grottesca, paradossale, il 3-0 del Barcellona sulla Palmas col gol di Busquets, la doppietta di Lionel Messi nel Camp Nou deserto, perché per volontà del Barcellona si è giocata a porte chiuse, una decisione che ha spaccato in due, e anzi in più frammenti, il barcellonismo catalano e mondiale, perché la società ha motivato questa scelta come un segno di dissenso rispetto a quello che stava accadendo, ma chiaramente qualcuno l'ha preso come un atto di appoggio. Grazie Dario Ricci. L'immagine simbolo, Sergio Nava, Luca Veronese ancora con noi, un'ultima battuta per entrambi prima di chiudere. Luca, da domani mattina che succede? Velocissimo, in 30 secondi. Domani mattina può succedere di tutto, dal carcere per Puigdemont e la giunta di Barcellona, alla reazione forte di nuovo del governo, alla dichiarazione di indipendenza. Quello che è certo è che i voti non contano, se hanno votato 10, 1000, 1 milione, 2 milioni. Io stesso ho in mano 10 schede, avrei potuto votare. Conta che da oggi, da domani, Barcellona, la Catalogna è molto più forte e secondo me ormai va dritta verso qualcosa di molto vicino all'indipendenza. Sergio Nava. Allora, un aggiornamento di questi minuti sul palco qui in Plaza Catalunya, ci sono i leader Sanchez e Cuixart della principale associazione civiche catalane, l'Assemblea Nazionale e Òmnium. Entrambi hanno ringraziato la gente andata a votare. Cuixart ha parlato di giorno storico, adesso siamo orgogliosi di quello che avete fatto, hanno ringraziato anche i mossos da squadra per la collaborazione e hanno ribadito che dopodomani, martedì, ci sarà uno sciopero generale qui in Catalogna, di fatto si paralizzerà probabilmente la regione, ancora una volta in protesta contro Madrid. Quindi il traccio di ferro prosegue, non è finito assolutamente. E quindi non è finita qui. Grazie a Sergio Nava, grazie a Luca Veronese e tutti i nostri ospiti, a Dario Ricci, Claudia Schiattone in redazione, tutta la redazione di Radio 24, Valeria Bernardi in regia. È finito qui invece però il nostro speciale Barcellona e Madrid, mai così lontane, ancora un matrimonio possibile, come abbiamo detto, da domani è tutta un'altra storia, ma ancora lunga, e continueremo a raccontarvela. Intanto grazie per essere stati con noi, per i moltissimi messaggi che sono arrivati, ancora un saluto, una buona serata, continuate a seguirci con gli aggiornamenti di GR24, un saluto da Anna Migliorati.